voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. 19ª puntata. Limpida giornata d'autunno, salì in macchina con la mia amica Chicchi sino alla Balsiglia, dove nel 1689 si era combattuta una famosa battaglia tra i Valdesi e le truppe del Duca, alleato con Luigi XIV. Nel piccolo bar accanto al ponte ci fu servito un ottimo tè. Il migliore tè che si trova nei bar italiani si beve nelle valli, forse per farsi perdonare tutto il vino ingollato dai padri. Servito da una signora che parlava con il timbro alto, chiaro, rotolato nelle R di molte donne valdesi. Il suono di quella R, anche nelle voci maschili, lo ha persino la voce del mio cugino olandese, è per me un richiamo immediato in cui non discerno il timore di un rifiuto dalla speranza di accoglienza. Quel giorno d'autunno, le poche vecchie case al di là del ponte, sotto la cresta della Balsiglia dai quattro salti taglienti, erano in ombra e serrate, chiuso pure il piccolo museo. Camminammo un poco in salita per osservare di fianco, al di là del torrente, le pendici boscose dove tre secoli fa si era combattuta la battaglia. La famiglia del bar stava cavando patate dalla terra di un campo poco distante. La germanasca scendeva gorgogliando, la stessa germanasca nella quale i fratelli Tronopulà, si chiamavano anche quelli che stavano raccogliendo le loro patate, avevano gettato tre secoli innanzi la macina del mulino prima di partire armati verso l'esilio svizzero. La recuperarono poi dalle acque del torrente mentre si preparavano al lungo inverno del 1689 nelle loro casematte. Li guardavo i Tronopulà cavare patate e di nuovo mi sorprese un senso di inadeguatezza simile a quello che mi aveva colta quando il contadino d'Angrogna mi aveva detto che eravamo cugini mentre riconduceva le sue bestie alla stalla. Il giorno autunnale era così intenso intorno a me, nell'azzurro del cielo, nell'aria limpida e fragrante di timo e di resina, nei gesti di quelli che laggiù mettevano le patate nei sacchi, che mi parve di essere un filtro imperfetto per questa realtà, uguale, mi dicevo, a quella di allora, quando la storia che volevo narrare era accaduta. Non c'era legame tra me e quel mondo che mi restava esteriore, no, le povere e pietrose case in ombra, le quattro creste affilate, la donna dalla voce alta, chiara, segnata dalla R, non mi erano parenti, la loro storia non mi precedeva, non ero venuta da quella. Eppure il mio western era ancora lì, tutto intero. Come allora, i miei eroi non sempre erano eroici. Non avevo progettato il film proprio per far scendere i padri dal loro monumento. E come allora, i miei cattolici non appartenevano all'odiata cerchia della gerarchia persecutrice e della sbiraglia muta. Anzi, oggi c'è in me una nuova attenzione verso le loro ragioni, anche se continuo ad avere antipatia per gli aspetti dell'ufficialità della Chiesa, l'oro, la porpora, l'odioso salmodiare, l'ossessione burocratica dei riti e persino quello stile politico e letterario italiano dall'eccessiva e volutamente ambigua aggettivazione che tra di me chiamo cattolico. Quando sullo schermo il Papa si affaccia alla sua finestra, mia madre, che pure non sembra tenere affatto alle proprie origini, osserva, tirando su con il naso nel gesto che le è abituale per esprimere scherno, «Guarda il cucù!» Frugando tra i documenti, sto seduta ore alla Biblioteca Reale e mi delizio leggendo i libelli antivaldesi del priore Marco Aurelio Rorengo. Il suo stile, per nulla cattolico, è rozzo, ma vivo, e ritrovo i padri citati nel loro linguaggio quotidiano, gli umori del Seicento, i particolari di una convivenza litigiosa ma non sanguinosa in quel breve periodo. Annoto e rifletto. Mi sembra di essere equidistante tra le ragioni religiose del priore e quelle dei padri. Sono invero indifferente, come al solito, alla dottrina, anche se naturalmente non tra le ragioni dei perseguitati e quelle dei persecutori. Una sera chiedo a Gianni: ma tu, in punto di morte, vorresti l'estrema unzione? Mi accorgo che pondera tra di sé prima di rispondermi negativamente. Questa sua esitazione mi sorprende e lo distanzia dalla mia idea di lui, però non so perché mi compensa ad una sua precedente risposta. Appunto, vedendo il Papa sullo schermo, presa da uno di quei miei pensieri, gli avevo domandato: ma tu ritieni che ci crede? E lui subito, tranquillo: ma figurati, aveva replicato. Un giorno mia figlia pranza con noi. Il suo bambino di pochi mesi dorme nella stanza accanto mentre mangiamo. Racconto delle mie ricerche alla Biblioteca Reale. Cito i 400 bambini rapiti alle loro famiglie valdesi durante la campagna del 1686 e affidati a famiglie di sicura fede cattolica. 400, dico, mai restituiti nonostante i reclami. Mia figlia diventa pallida. Le sue lentiggini ingrigiscono. Ma è vero? Chiede. Certo che è vero. Io, dice Laura, mi sarei fatta cattolica subito. Cattolica? Perché no? I nostri figli non sono battezzati. Ci siamo sposati nella saletta del municipio di Torino e ci aveva letto le formule di rito una mia giovane collega e amica comunista, minutissima nella grande sciarpa tricolore. Che i figli decidano loro, avevamo detto. A mia figlia però non so improvvisamente che cosa rispondere. Che io piuttosto sarei fuggita per sentieri e dirupi? Quando Laura se n'è andata, mi viene in mente la frase che la nonna di Vera aveva detto a una nipote che si faceva cattolica per sposarsi: tu hai preferito la luce della candela a quella del sole. La scrivo, la trovo bella, la adopererò. Del resto, di frasi belle e rispondenti ai fatti ne trovo di continuo nei documenti che sto consultando. È il 1688. Un colono cattolico che ha comperato un podere confiscato dal duca ai valdesi, ormai esuli in Svizzera, si crede per sempre, sta seminando quando ode una voce. Uno sconosciuto lo chiama di là dallo steccato. Ehi tu, ascolta, Odenti fa dire di ben seminare per l'anno prossimo. Oppure l'ugonotto francese, preso in agguato, mentre sale sul patibolo costruito in giorno di mercato sulla piazza principale di Pinerolo, parla e prega ad alta voce. Hanno pane lassù alla Balsiglia e polvere da sparo e sale e vino e lana delle loro greggi e coperte e tela e pentole e intorno alle casematte canali per far scorrere via l'acqua e l'iddio degli eserciti combatte con loro e hanno pane e sale e vino e il popolo che ascolta piange e si stupisce. Io non piango e non mi stupisco. Io racconto. La mia arroganza barbetta è un'arroganza bastarda, pallido riflesso di quella giusta arroganza di chi ha una storia, di quell'allegra arroganza che brucia nei grandi falò accesi ogni anno il 17 febbraio. Riflesso imbastardito, esso illumina appena le mie pagine, disceso com'è attraverso altre pagine. Sono una zingara che va in giro con il suo carrozzone narrando storie. Ecco le vittime, ecco i carnefici, ecco i vendicatori e il lieto fine. Eppure mi dico, io non mi farei cattolica mai. Un mattino scrivo: nell'orto della nonna a Torre Pellice crescevano le erbe portate dalla bisnonna ugonotta dal suo orto di Provenza. Poi controllo insieme a mia madre il nome delle erbe. Non riusciamo a identificare quello dell'erba dei piselli. Adesso capita che ogni tanto mia madre mi parli di quando era bambina. Poche frasi, dette con rammarico quasi, riflettendo. Ricorda la severità del padre, Mio padre mi prendeva a schiaffi perché confondevo la B con la D. Avevo 4 anni. La mia nonna Jeannette, l'ugonotta, nella stanza accanto diceva «Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu», mentre me le prendevo. Sono scarsissimi i reperti di archeologia domestica della mia famiglia materna. Ci furono ripetutamente strappi così acuti, separazioni e distacchi così repentini. Mia madre, per esempio, decise in pochi giorni, per motivi che non spiegò mai completamente, di lasciare l'insegnamento in Italia, dove, mi disse, non la pagavano d'estate, per accettare un incarico all'università di Riga, in un paese, la Lettonia, a un'immensa distanza geografica e storica dalla sua piccola valle d'origine. Distacchi così repentini da rendere disagevole ricostruire una storia in cui tra i protagonisti i rapporti si intrecciano in maniera complementare, continua ed evolvente. Ciascuno ha una sua storia particolare e in quella sta rinchiuso come in una monade ostile. Ci si frequenta attraverso una gara di meriti, dove persino grammatica e dizionario sono armi di perfezionamento. Una gara mai risolta perché manca l'unica approvazione acquietante, quella impossibile del dio Barbetto. Per un 6 di latino, il nonno tolse la figlia dal ginnasio, mentre lasciò frequentare il liceo al figlio, che collezionava magari dei 5. Lei non glielo perdonò mai, ma ancora oggi dice «ero la sua preferita». Anche se non lo dava a vedere. Non si perita di parlare male del fratello di cui era gelosissima. Allude alla predilezione materna per lui. Mia madre non mandava giù che io fossi più intelligente di mio fratello. Parla con la violenza consapevole con cui uno dei padri avrebbe parlato dell'acqua di una bialera sottrattagli dal vicino. E intanto continuo a scrivere della nonna che sgozza il pollo sul ruscello del giardino e vedo e odoro scorrere l'acqua d'estate nell'orto tra i rivestimenti di pietra del rivo. Un odore profondo, quasi di cantina, diverso da quello dell'acqua che scroscia sui sassi del pellice e scende verde e limpida in canali rapidissimi verso la fabbrica. Profondo come la fragranza delle foglie nei sentieri della collina, entro le pareti ripide e alte di terra, trattenuta da sassi e radici. Leggero, invece, il sentore acidulo del sole sulle foglie di vite. Avrei bisogno di un intervallo, ma non per riempirlo di qualche cosa, proprio di un'interruzione cava, vuota, fresca come i sentieri della collina, in cui ripararmi senza chiedere nulla. Sono ferma e non scrivo quando mi giunge il contratto della RAI. A confermare la mia diffidenza iniziale è assai vago nei termini. Non specifica che cosa mi toccherebbe fare. Inoltre, e ciò mi irrita molto, al compenso spettante al regista è stato aggiunto un terzo della già piccola somma promessa a me. Preferisco lavorare gratis piuttosto che essere sottopagata. Telefono subito e disdico il contratto. Al regista scrivo una lettera molto rude e chiara. I miei valdesi resteranno miei. Come sempre, quando rifiuto, sono quasi felice e passo subito ad altri progetti. Perché non fare un documentario con interviste nelle valli cattolicizzate 3 secoli fa? Le valli di Cuneo, la Val di Susa e quella di Pragelato. Cerco e non trovo un libro che mi pareva di avere sulle valli di Cuneo. Prendo una carta geografica e traccio qualche itinerario. Riprendo i fogli sparsi sui quali ho scritto le frasi su Torre Pellice e scrivo. Ricordo benissimo la prima volta che mi sono detta «sono felice». Avevo 17 anni e correvo giù per il prato. Dapprima la ragazza che corre stenta a prendere contorno. La riluttanza che provo a rappresentarla nasce dalla mia attuale avversione al mio passato, a esporlo, a definirlo. Avversione che ha come bizzarro contrappunto l'accanimento con cui incalzo il passato degli altri. Scriverò di Concettina, mia allieva 12 anni fa. La prima volta che l'avevo fatta leggere, avevo notato stupita la sua R che segnava ben distinta una pronuncia francese insolitamente corretta. Concettina, alta, bionda, d'un biondo di spiga, non di lino, leggeva con la voce un po' roca di molte bambine meridionali. Era pugliese, di Faeto, mi disse, in provincia di Foggia. Da loro si parlava un dialetto angioino. Lei pronunciava ancora la H di Ot. Il parroco aveva le carte di Faeto in parrocchia, ma non le faceva vedere a nessuno. E su ciò Concettina sorrise. Non dissi a Concettina che probabilmente c'erano anche altre carte, forse nell'archivio dell'Inquisizione di Trani. Su queste carte la sanguinosa storia di Faeto, valdese sin dal Medioevo e convertita con la forza durante la Controriforma. Ascoltando leggere Concettina con la sua fresca pronuncia quotidiana, immaginavo che nel suo paese avessero continuato per anni a leggere di nascosto la Bibbia in francese, o forse a recitarla, trasmettendosi oralmente i testi, e che per questo si fosse conservata così a lungo la loro lingua, occitano o franco-provenzale. Su questo argomento Concettina preparerà poi la sua tesi di laurea. Alta, bionda e bella, si è sposata in chiesa e, come già per sua madre e la madre di sua madre, ha officiato il prete. Vorrei, mi dico, indagare il suo sorriso e i silenzi della sua gente, indagare quel che è rimasto, fosse pure soltanto un taciturno riserbo. Ma anche in me che cosa è rimasto? In me, che sono una bastarda senza storia, che alla storia di altri si aggrappa, che non ha in fin dei conti neppure le ignare radici di Concettina, il suo angioino ostinato e segreto. In verità, il dio Barbetto non rinuncia mai a nessuno. Anche i bastardi li insegue e raccatta. E d'altronde, in nome suo, i padri non hanno mai rinunciato a un pezzo di terra, a una pendice boscosa, a un capretto neonato, a una polla d'acqua, a un lembo di cielo gelido ritagliato dalla finestrella. Perché dovrebbero rinunciare a me o a Concettina? A lui, acquattato nel mio animo, mi lega un patto che contraddice se stesso, perché è imposto e non sancito, un disaccordo, un patto di infedeltà, piolo nudo piantato profondo ben oltre la superficie dei risentimenti minoritari. Anzi, questo nodo di irragionevolezza, cattolica mai, che ho sentito raggrumarsi in me via via che scrivevo dei padri, era avvolto attorno a un diniego che, lungi dal riportarmi al loro indomito passato, mi riallaccia piuttosto a qualche cosa di me, remoto, non di secoli, ma di disconoscimenti. Questo dovrei rintracciare. Qui ci sarebbero indizi da seguire e collegare in quel libro diverso che Luisa mi chiedeva. Devo scrivere di me. Qualche settimana dopo aver deciso di non firmare il contratto della Rai e dopo aver riposto tal quale le conserve in cantina, libri e appunti su uno scaffale, presi di nuovo la macchina da scrivere e incominciai questo libro. Ma partita dall'urgenza di un'inchiesta, dalla chiamata del dio Barbetto, ben altri motivi completamente diversi si affollarono in rimandi e richiami. Man mano che andavo avanti, che verificavo, ripensavo, cercavo di collegare, non solo inciampavo nel mio disordine cronologico, nella mia disattenzione geografica, ma avvertivo la necessità di trovare una distanza che non fosse semplicemente il passato. Avrei voluto riuscire a non dividere l'io narrante dall'io trascorso, non predeterminare l'uno dall'altro, accennare ai segni contenuti in quel cerchio che si stava chiudendo. Solo nel presente, un grande presente senza mura, avrei potuto dare unità all'io. Ma il presente si rifiutava. Mi stavano di fronte la mia vita e il mio libro, e pareva ogni giorno di più che nel libro potesse essere tramutata e assorbita la vita. Le pagine che scrivevo prendevano un aspetto irrevocabile e mi opprimevano con un'invadenza sempre maggiore.